Mercati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Si batte l'angolo fuori dalla mezzaluna, la palla arriva nell'area di rigore e arriva anche il gol di Evra, che porta in vantaggio la Juventus dopo 12 minuti. È 1-0 di testa, l'ha presa il più piccolo di tutti, Patrice Evra. Pasco Regini attaccato da Pogba, va dentro da Eder che passa al limite, può allargare in area, Gabbiadini ce l'ha sul sinistro, Gabbiadini! Che gol di Manolo Gabbiadini, che fa 1-1, la mossa di Mihajlovic è vincente, pareggio della Samp al sesto della ripresa. Di vicino di nuovo Ljajic, Maicon il suo cross per Nainggolan che la gira in porta, avanti la Roma al 40esimo, Raja Nainggolan. Dalla bandierina va Perotti, eccolo il cross con il destro, colpo di testa, la palla che termina, ha pareggiato il Genoa, ma annulla l'arbitro, annulla il guardalinee, esultava Rincon, bisogna rivederla. Poi l'abbiamo rivista, Rincon era una scarpa in fuorigioco, no, anche una gamba, forse. 800 24 00 24 è un pezzo del riassunto sonoro di un pomeriggio un po' così, Juventus 36, Roma 35, questo è il verdetto, questa è la notizia, tra Juventus e Roma esce meglio la Roma dal doppio incrocio con le genovesi, non era per niente scontato, soprattutto visto la prima mezz'ora di Juventus-Sampdoria, visto come la squadra di Allegri aveva preso questa domenica che sapeva tanto di Final Four, invece è uscito un pareggio a Torino 1-1 e poi per una volta la Roma non si è buttata via, non ha buttato via la chance di avvicinarsi e dunque il verdetto, il bilancio di questa domenica, Juventus 36, Roma 35, Pierluigi Pardo, Carlo Genta. Eccoci. Non era scontato. No, soprattutto dopo la prima mezz'ora, la Juve ha giocato benissimo la prima mezz'ora, poi la Samp si vedeva che nella parte finale del primo tempo aveva provato a tirarsi su, poi la differenza l'ha fatta Mihajlovic nel secondo tempo, l'ha fatta Gabbiadini. Sì, l'ha fatta anche la Juve che si è un po' spenta, cosa che invece, non ha fatto la Roma, complice le coppe. Sì, ha pagato magari il fio alla Coppa, la Roma questa volta capitalizza gli aiutini, no? Perché per la seconda volta consecutiva pareggio la Juventus, l'altra volta pareggio il Sassuolo, capitalizzando gli aiutini ma senza guadagnare punti. Fuori gioco c'era l'espulsione di Perin, sull'ultimo gol, quello di il rigore, sì, l'espulsione di Perin no, perché c'erano già due giocatori che stavano rimanendo sulla linea di porta, poi c'è quel gol fuori gioco, sì, possiamo dire bravissimi gli arbitri a coglierlo. Genoani cazzati duri. Sì, Genoani arrabbiati, è successo di tutto anche nel dopopartita, già nell'intervallo Gasperini espulso, abbiamo da parlarne fino alle 19:00 24 00 24, perché questa è una domenica in cui si parlerà molto anche dei signori doveri e banti, Ma chi si rimette ancora il pallone fuori dalla mezzaluna? Perché non si può fare, da lì è nato il cross del gol per Evra, la rimette in mezzo Marchisio, ancora per Bonucci, l'anticipo su di lui è di Gastaldello. No, vabbè, questo ogni tanto lo facevo anche io quando giocavo. Bisogna essere furbi nella vita, poi per non farsi beccare, ma più quello mi rode che un giocatore che è alto 1,60, non so quanto può essere alto Evra, che ci fa gol di testa. Posso capire che ci fa gol Morata o Llorente o Bonucci, ma Evra non si possiamo permettere di prendere gol così. Le sostituzioni pensavo che fosse un pochino più lungo, però è stato così, dobbiamo accettarlo. Dispiace non aver vinto, abbiamo fatto un bel gran primo tempo secondo me, con grandi occasioni. Nel secondo tempo abbiamo trovato più difficoltà, direi Buffon alla fine ha fatto una grande parata, noi abbiamo avuto alcune situazioni favorevoli e non siamo riusciti a portare a casa questa vittoria. Dispiace perché i ragazzi credo che abbiano fatto tutto il possibile per vincere. Un po' nervoso Allegri, Pier? Sì, beh, insomma, sicuramente due punti buttati via dalla Juve, per come si era messa la partita sono due punti buttati via, però dal punto di vista arbitrale io ti dico, Doveri secondo me ha fatto degli errori, ma insomma non mi sembra di poter dire. Anch'io mi aspettavo 4 minuti di recupero, fra l'altro lui il fischio finale l'ha dato dopo 2 minuti e 50. Detto questo, insomma, mi sembra che gli episodi della partita, c'è questo episodio del pallone fuori, sì, dalla lunetta, che Sì, è diventata una moda quella di calciare calcio d'angolo fuori dalla rete. È chiaro che a norma di regolamento è un gol irregolare. Marchisio, a norma di regolamento, sempre, Marchisio, tutti gli angoli dalla parte opposta rispetto al giudice di non è che porta, ci sia un vantaggio così. Insomma, non mi sento poter dire che la Juve ha segnato grazie al fatto che il pallone era a 4 cm oltre, però da un punto però di vista formale però, chiaramente i calci d'angolo dovrebbero essere battuti nella lunetta. No, l'episodio è stato, ma non è stato rilevante per la partita, il mancato secondo giallo di Vidal all'88esimo. Non rilevante per la partita, però sarà rilevante per la partita sicuramente. Se espulso saltava fuori anche la Supercoppa di lunedì, perché le sanzioni del campionato si trascinano fino alla Supercoppa. Era doppio giallo, c'è da dire, poteva anche essere rosso diretto a quel punto, se vedi il fallo e lo sanzioni. Per me non era rosso, poteva anche esserci. Proprio un normalissimo cartellino giallo, sarebbe stato il secondo, rosso secondo me non era, e però insomma avrebbe portato la squalifica contro il Cagliari, dove sarà squalificato Bonucci, rientrerà invece Chiellini, e quindi insomma Chiellini e Ogbonna sarà la coppia centrale. A proposito di cartellini pesanti, così abbiamo finito il conto, mancheranno Astori e Pjanic alla Roma, in Roma-Milan, che è l'ultima partita per la Roma prima di Natale. Per completezza di informazione, sono girate centinaia di foto su Twitter, evidentemente è una moda quella di battere i calci d'angolo così, hanno postato in tanti la foto di Pjanic contro il Manchester City. Evidentemente le linee della lunetta le tirano un po' così, ma perché devono tirare l'ora della partita. C'è un punto di forma e sostanza, cioè secondo me sono arrivati 800 tweet, non l'hai fatto vedere, poi dopo che l'ho fatto vedere, l'hai fatto vedere. E chiaramente stiamo parlando di una cosa che formalmente è irregolare, il calcio d'angolo doveva essere ribattuto e non bisognava neanche arrivare nella condizione di far arrivare il pallone al centro dell'area di rigore, quindi tecnicamente è chiaro che è irregolare un calcio d'angolo. Se lo fanno in 10 però viene fuori il gol, è chiaro che quell'episodio fa giurisprudenza. Fa giurisprudenza, se ne può discutere. Detto questo, poi insomma, per onestà, non mi sento di poter dire che il gol della Juve nasce dal fatto che è stato battuto 4 cm oltre, cioè il vantaggio mi chiedo quale sia. Detto questo, formalmente è chiaro che è un calcio d'angolo irregolare. E poi c'è la lunghissima moviola sulla Roma, l'espulsione di Perin alla mezz'ora, rigore nettissimo, quello su Nainggolan, per l'espulsione se ne può anche riparlare. Poi domani leggeremo molto su un contatto tra Astori e Sturaro, su un fuorigioco di Sturaro che andava in porta che non c'era, su una trattenuta, poi vedremo se da rigore o no, di Florenzi su Piniglia, sul gol di Rincola al 92esimo. Insomma, ne abbiamo di cose di cui da domani parlerete. Noi oggi proviamo anche a capire perché la Juventus ha pareggiato, al di là dell'arbitro. Esatto. 8-0-0-24. Quindi calcio no. No, parliamo anche di calcio. No. Ci proviamo. No, parliamo di calcio, che mi sembra interessante. 8-0-0, noi l'abbiamo detto subito così, nel primo blocco, e ce la siamo fatta fuori. 8-0-0-24-0-0-24. Ovviamente aspettiamo anche voi, siamo in diretta fino alle 19. Traffico. Sono Pavel Nedved, ho capito solo adesso cosa vuol dire giocare a lavorare per la Juve, tutti sempre contro la Juve. Oggi arbitraggio è stato scandaloso, ci hanno dato solo 3 minuti di recupero, solo 3, tutti sanno voi quanto è difficile giocare a stomaco pieno, ma io sono una persona intelligente e sono anche calmo. Porca miseria. Tutti convocati. Diciamo che non si giocava più a calcio, diciamo, ogni mezza cosa era fallo, poi nervosismo anche perché comunque sia loro in 10 tutta la partita, pensavano magari di recuperarla, ma noi penso che abbiamo gestito tranquillamente la partita. E poi vabbè, dai, prendere i calci ti fa nervosire comunque, no? Prendere i calci fa innervosire, eh? Voi vi innervosite se prendete i calci? Sì, cioè mediamente è un po' che non prendo calci, anche insomma non gioco a pallone, quindi sotto il tavolo. Sì, però beh, quello può essere anche piedino, può essere anche interessante, dipende chi te li dà i calci. No, però insomma è stata una partita, per quello che ho visto, sicuramente maschia, come si diceva una volta, molto nervosa. Sull'episodio dell'espulsione, una vecchia vecchissima storia, sull'interpretazione del fallo su chiara occasione da gol dei portieri, che secondo me è un'interpretazione spesso punitiva nei confronti dei portieri, non soltanto oggi. Poi sul caso di oggi sono abbastanza d'accordo con Carlo, nel senso che c'era un difensore che stavano rimanendo, sì, uno era praticamente addosso, l'altro era sulla linea, detto questo l'arbitro ti dice era chiara occasione da gol, sì, era chiara occasione da gol, quindi insomma è proprio veramente il regno dell'opinabilità. Detto questo, quella regola è troppo punitiva. Aggiungiamo anche un altro episodio, così le abbiamo detti tutti, no, perché sennò poi ti scrivono avete dimenticato, c'è una simulazione di Ljajić, nell'azione che porta il gol di Nainggolan. sì, tecnicamente il signor Banti avrebbe dovuto fermare il gioco prima, e ammonire gli AEC. Così le abbiamo dette tutte, poi aspettiamo anche Rudy Garcia. No, ma noi vorremmo cercare adesso, al di là di tutto, di cogliere il, almeno quello che interesserebbe a me. Scrivono, no, voi non lo so, non avete detto di quell'altro. Ti ripeto, fino a un istante prima di far vedere che era, dice: ah, perché non lo fai vedere? Poi dopo che l'ho fatto vedere, ci sono gli juventini che ti scrivono: perché l'hai fatto vedere? Mettetevi d'accordo, fatemi una birra, amici miei. Ma è giusto così, è certo, fa parte evidentemente della vita, del calcio e della passione. No, a me interessa il dato tecnico. Mi sembra che la Juve starà zitta, la Juventus, dopo queste due domeniche di aiutini giallorossi. Beh, insomma, allora, io su Juve Samp francamente non so che aiutini ci possono essere stati. No, ma su Genoa Roma, ma vedremo, insomma, siamo pronti a ospitare gli uni e gli altri, insomma, se qualcuno ha qualcosa, se qualcuno qualcosa ci mancherebbe altro. Ma secondo me stanno zitti al di là degli strali di Nedved. Nedved, non so se hai visto, sì, in tribuna scatenato a fine partita insieme ad Agnelli, poi è sceso a bordo campo. Però ribadisco, su Juve Samp io faccio fatica a capire che cosa possa aver dato fastidio alla Juve, sinceramente. Su Genoa Roma vogliamo discutere l'espulsione di Perin sulla simulazione di Ljajic qualche secondo prima del gol di Nainggolan sicuramente, ma o del rigore di Roma Sassuolo sicuramente, ma insomma Juve Samp mi è sembrata una partita dove francamente non ci sono episodi, se non appunto questa cosa del pallone messo fuori sulla lunetta di Marchisio e di questo secondo cartellino. Ah, ma c'è l'episodio di Pogba, forse riferimento a quello. Però ti dico, Pogba nel primo tempo, sì, lo diciamo perché non avesse visto la partita, nell'uno contro uno con Cacciatore viene trattenuto, non protesta, e questo insomma, perché non è che sia un indizio no, al 100%, però mediamente tutti a protestare. No, però mediamente è un giocatore che sente un contatto da rigore in area di rigore, solo in uno contro uno viene messo giù, qualcosa all'arbitro dice, non gli ha detto niente, e a me sembra un contrasto di gioco. Intanto siamo in buona compagnia, c'è anche qualcun altro che da 19 minuti sta facendo la moviola di Genoa a Roma. Ah, certo. Prima ancora dell'aspetto tecnico, gli amici di Sky. Gli amici di Sky. Non abbiamo ancora detto, bellissima la storia comunque di questo rigore, no? Sì. Perché rigore, espulsione, va a tirarlo Ljajic, entra questo Lamanna, che è un portiere, secondo portiere del Genoa, nemmeno giovanissimo, 23-24 anni, 121 presenze in Serie B, col bar, 0 in Serie A, debutto assoluto in Serie A, entra, prima palla che tocca in Serie A, parla rigore a Ljajic, mica male. Comunque il dato tecnico è che, così come non era capitato dopo Fiorentina-Juventus 0-0 perché la Roma si era fermata col Sassuolo, questa volta la Roma è stata capace di cogliere l'atti, e questo ci regala sicuramente un campionato più interessante, sì, anche perché adesso c'era uno snodo importante. Adesso c'è Cagliari-Juve che, vabbè, insomma, dal punto di vista della classifica è una partita sbilanciata, però delle squadre di bassa classifica il Cagliari forse è la più pazza, quindi è quella che può perdere 5-0 serenamente in casa visto che ha grossi problemi, ma è anche quella che può tirar fuori la prestazione folle come è successo per esempio contro l'Inter e contro il Napoli, quindi secondo me non è una partita completamente da sottovalutare. E poi ci sono Juve-Inter. L'Inter oggi in questo momento è poca roba, però comunque insomma Juve-Inter è una partita che conserva un suo fascino e una sua difficoltà, e poi c'è Napoli-Juve per arrivare alla 18ª giornata. Insomma non è esattamente un calendario semplicissimo. La Roma avrà lo scoglio del Milan, che certamente insomma può essere pesante. No, secondo me abbiamo 2-3 giornate molto interessanti. Sì, Alessandro da Milano, 800 24 00 24, ovviamente siamo qui aperti alle vostre telefonate, se volete parlare della moviola parliamo della moviola, se volete parlare di questo dato tecnico siamo qui, poi vivremo insieme anche la lunga vigilia di Milan-Napoli, vivremo insieme anche Cesena-Fiorentina, gara che inizia alle 18. Alessandro, eccoci. Buonasera. Prego. Complimenti a tutti e tre per la grande competenza e l'obiettività della trasmissione. Io da juventino sono contento di avere la Roma finalmente a meno uno, finalmente vicino a noi, e sono curioso, venerdì prossimo, in occasione della conferenza stampa di presentazione di Roma-Inter, di vedere se il grande Rudy Garcia... Roma-Milan, prego. Se mi scusi, Roma-Milan, parlerà ancora della partita di due mesi fa. Se suonerà il violino. Esatto, lì che vuole arrivare. e non vince la sua Roma. È per quello che è contento di avere la Juventus vicina, per quello di avere la Roma vicina. Sì, è per quello, Juventino. È per quello che è contento. Sì, almeno la smette per un questa sottile dai. Perversione. Poi volevo sì. fare comunque una considerazione brevissima sulla Juve. Contenta del passaggio del turno, era come detto il minimo sindacabile, come ha detto anche Giovanni in settimana. Però l'anno scorso questo minimo sindacale. Conte non lo aveva neanche raggiunto. E la squadra è palesemente stanca e Vidal deve andare un po' in vacanza in Cile perché è impresentabile. Sì, Vidal che sì, mi sì, sembra sì, sia stato oggi il peggiore, Pier, della sì, Juventus, sì. Decisamente. Sì, Vidal male. Vidal direi male e... Mi dà il male, ma insomma ci sono la Juve sarà strana oggi, te lo dico sinceramente. Ha beh, fatto una mezz'ora. Quanto ha pesato la Coppa, Pier? Ma non lo so quanto ha pesato. Dai, ieri Allegri aveva fatto quel discorso. Pesato, sentiamo no. Garcia? Sentiamo Garcia, microfoni di poi Sky. Torniamo sulla Juve, 17:23, è arrivato anche lui ai microfoni. Eccolo qua. La situazione con una partita che ha due elementi fondamentali, secondo me, Garcia. Uno, l'interpretazione intelligente della sua squadra, perché ha accettato la sfida sul piano del ritmo della corsa, delle giocate in verticale nel primo tempo e ha fatto possesso nel secondo. L'altro elemento, le troppe occasioni sbagliate. Avete rischiato fino alla fine. Soprattutto con quel calcio d'angolo finale, da che cosa preferisce partire? No, ma l'analisi è fatta? No. È stato bravo, bravissimo. La ringrazio, però sono più importanti le sue di analisi che le mie. No, ma abbiamo sfruttato questa occasione di tornare a meno uno, che non abbiamo sfruttato l'altra volta, e questa volta abbiamo imparato bene e abbiamo vinto qua, dove a Genoa è sempre difficile vincere e sarà difficile per tutte le squadre che giocheranno qua. Sì, ovviamente sul secondo tempo con tante occasioni era possibile mettersi tranquillamente con un gol di più in vantaggio, essere molto più tranquilli, perché quando una squadra è così in 10 può essere pericolosa sui calci piazzati, per esempio, anche se l'ultimo corner non c'era, ma siamo passati vicino al pareggio su un calcio piazzato. L'ha convinta questa formula con l'attacco leggero senza né Totti né Destro? Sì, perché sapevamo che era possibile sfruttare la profondità e con la velocità dei nostri attaccanti, sfruttare il fatto che questa difesa del Genoa è fortissima, ma manca forse un po' di velocità. Ultima cosa per me, Nainggolan, Garcia che è sicuramente soddisfatto, anche se giustamente ha fatto notare come la sua Roma abbia sofferto e non poco nel finale di questa partita, una partita giocata un'ora in 11 contro 10, 8-0-0, 24-0-0, 24, questo certamente ha aiutato una squadra che usciva 4 giorni fa da una battaglia di Champions League col morale segnato dall'eliminazione, sicuramente andava in un campo difficile, perché il Genoa è una squadra che affronta la gara sempre in maniera molto tosta. Essersi trovati 11 contro 10 per un'ora certamente ha dato una mano. Sì, no, sicuramente ha dato una mano. Quando si valuta la Roma, oggi va però, anche considerato insomma, questo. Io ti dico che alla fine il risultato e la prestazione mi è sembrato all'altezza, no? Nel senso che comunque con una partita ragazzi, condizionata sicuramente dall'uomo in più per 60 minuti non è un detto. In casa di una squadra che ha 6 punti meno di te, terza in classifica. Appunto, cioè, partitissima. Per la seconda settimana consecutiva giocavi dopo la Juve, dopo che una settimana fa avevi buttato via veramente una grande occasione. Allora, così come ti dico che la Roma, secondo me, col Sassuolo, per me è stata imperdonabile, ha completamente sbagliato l'approccio con la partita e quindi proprio errore da matita rossa, oggi mi sento di poter dire che ha fatto pienamente il suo. Quindi, se valutiamo la prestazione, secondo me oggi la Roma ha dato una dimostrazione di essere cresciuta, anche perché non dimentichiamoci che veniva da una settimana che era stata una mazzata dal punto di vista psicologico, per cui insomma c'erano tutti gli elementi, insomma, di difficoltà. La Roma ha fatto pienamente il suo, adesso è a meno uno, il campionato è lunghissimo, sono due squadre fantastiche, secondo me sono due squadre fantastiche, rimane questo elemento di fondo. Una ha dimostrato di essere più pronta a livello europeo, però aveva anche un girone oggettivamente più facile perché era in seconda fascia, mentre la Roma quest'anno ha cominciato un lungo viaggio in salita dalla salita della quarta fascia. Insomma, ci divertiremo. Sì, ci divertiremo me... di sicuro con o senza questioni arbitrali. Paola dalla provincia di Milano. Paola. Sì, ciao a tutti. Eccoci. Io sono una tifosa sampdoriana. Ci conosciamo bene, contenta. Ciao Paola. Com'è? Tutte le conosci, è una delle nostre convocate. Chiama una donna subito, Genta. Ah, adesso sono talmente poche che. Sì, allora, Paola 010 34 21. Sì. Conosco anche Pardo, grande Paola. Conosci anche te, quindi. Grandissima. Prego Paola. Comunque, mi dica. Io poi mi offendo, Capuano lo conosci? Punticino intanto. Sì. Sì, anche se un pochino vorrei tirare le orecchie a Mihajlovic, perché secondo me la formazione iniziale era un po' sbagliatina, nel senso che noi abbiamo già giocato delle volte con solo due punti dietro qualcuno, ma il qualcuno era Soriano. A sto giro ha messo Kristicic, che quest'anno non ha mai giocato, e secondo me è stato un azzardo. Dovevamo partire già con Gabbiadini. Finché ce l'abbiamo, perché non usarlo? Sono d'accordo, anche se poi in realtà manca la controprova nel calcio, nel senso che Gabbiadini ha fatto la differenza, ma forse l'ha fatta anche perché è entrato in un momento in cui la Juve era già più stanca, era già meno... Non so dirti se Gabbiadini avrebbe avuto lo stesso impatto cominciando dal primo minuto. Sul discorso complessivo di Soriano, che chiaramente Kristicic non è Soriano, insomma, a un certo punto c'è stato anche Rizzo, che ha giocato in una posizione più avanzata, poi secondo me ha giocato molto meglio nel secondo tempo, un po' come tutta la squadra. Cioè, sul fatto che fosse un 4-3-1-2 molto piatto quello del primo tempo non ci sono dubbi, veramente una brutta Samp, soprattutto nella prima mezz'ora. Sì. Poi dopo è cambiato, però peccato perderlo Gabbiadini, peccato perderlo a questo sinistro, perché che la è veramente è destinato bellissimo. A perderlo, sarebbe anche da aprire il discorso su se alla Juve davvero conviene liberarsi di un giocatore come Gabbiadini, ma mi pare che il dado sia stato tratto, cioè sì, Gabbiadini il 3 gennaio sarà un giocatore del Napoli. Anche perché a proposito del discorso della convenienza, è vero che monetizzi, ma poi non è che monetizzi tantissimo né da una parte né dall'altra, a giudicare dall'offerta. Infatti, che abbiamo sentire sentito Garcia che sta parlando dell'espulsione di Perin, eh? Pensare comunque non so se è positivo, questa è la sua buffon, però non è Garcia, no? A tutte le cose che possono condurre comunque al risultato, che è stato un risultato pieno per voi. Dall'applauso Garcia mi pare di capire che possa aver fatto una mezza missione Garcia, però adesso andiamo a recuperare le battute. Sì. C'è Sergio da Pavia, ci fermiamo però per la pubblicità. Sono Pavel Nedved. Dicono che a fine partita mi sono scagliato contro arbitro Doveri, ma io sono persona intelligente e sono anche calmo, e quindi io non mi sono scagliato contro arbitro Doveri. Porca miseria, tutti sempre contro Juve. Tutti convocati. Ma penso che la squadra abbia fatto il massimo, mi ha dato tantissime partite con grande intensità. Purtroppo dispiace, sarei piaciuto a tutti vincere anche oggi, non ci siamo riusciti, rimaniamo in testa al campionato e questa è la cosa che conta. Questa è la cosa che conta, ma la classifica dice, dopo questa domenica di incrocio con le genovesi, Juventus 36, Roma 35, ed è un verdetto che sinceramente questa mattina io credo in pochi avrebbero pronosticato. Eravamo rimasti in debito con Sergio da Pavia. Sergio, eccoci. Ci sono. Prego. Sto tornando da Marassi e ho passato una bella giornata. In sì, però devi spegnere la radio, Sergio, poi andiamo avanti, prego. Volevo dire che ripeto che sono tornato da Pavia, no, sono tornato dallo stadio di Marassi, ho visto una bella partita e direi di più, ho visto una bella Roma, solo che non è stata capace di chiudere la partita perché ha avuto 3-4 palle gol. Vero. E quello che ci fa soffrire, sì, a noi tifosi della Roma. E poi volevo ricordare al tifoso della Juve che ha chiamato prima, io ho in mente la Roma di Luis Enrique. Se voi vi ricordate, ogni tanto Stekelenburg veniva espulso per lo stesso motivo che è stato espulso oggi Perin, o anche forse in modo... anche nel derby. Te lo ricordi? Beh sì, ma guarda, è un problema proprio di interpretazione molto punitiva nei confronti dei portieri di questa regola. Sì. Io sono assolutamente contrario, nel senso che già il calcio di rigore è una grande punizione. In più il portiere, quasi sempre, se il portiere interviene in ritardo, è quasi sempre occasione, chiara occasione da gol, certo. Perché il portiere, per quanto si possa essere spostato, sarà sempre a pochi metri dalla porta. No, a maggior ragione in questo caso, non si è verificata una situazione di quel tipo lì, sì, perché c'erano due giocatori che stavano rimanendo, due uomini che erano, rientrati. Sì, avrebbe potuto segnarla in Golan, tanto che ha proprio fatto un Eurogol. No, ma sul rigore non c'è assolutamente dubbio, non ci sono dubbi su questo, non si discute. Staremo qui probabilmente fino a mezzanotte, in realtà andiamo in onda fino alle 19, a discutere se i due uomini dietro le spalle di Perin giustificassero o no la chiara occasione poi, da rete. Poi un giorno cambieranno questa norma assurda nella parte dell'espulsione e probabilmente saremo tutti più contenti. Però vero quanto dice l'ascoltatore, io guardavo la partita col dottor Capuano prima e dicevo: guarda, il Genoa sta difendendo la sconfitta, ma la Roma ne sta sbagliando tanti, potrebbe rischiare nel finale. Ha rischiato, le ha detto bene. Sì, Serse Cosmi, ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Adesso facciamo incontrare Serse, cioè, ma è pronto Andro Mercu? No, voglio fare il Cosmi vero col Cosmi falso, eh? Dov'è Andro? Prepariamo. Se è andata bene alla Roma o è una vittoria meritata? Ma è andata bene, perché solitamente nel calcio, quando tu vai in vantaggio, sei in superiorità numerica e crei le opportunità per poterla, come si dice, chiudere la partita, e poi non dico inevitabilmente, però spesso succede che le partite non le vinci, insomma, voglio dire. Invece, ecco, sotto questo punto di vista le è andata bene, però poi credo che alla fine, insomma, sia una vittoria meritata, anche se ovviamente, insomma, l'episodio del rigore e dell'espulsione ha condizionato inevitabilmente tutto il resto, tutta l'altra partita. Ma tu ti saresti arrabbiato da allenatore di Perin espulso, cioè non con Perin, intendo con il signor Banti? Ma qui la regola, cioè, in effetti, è la regola è penalizzante, e lo sappiamo, ne discutiamo, o meglio, ormai non ne discutiamo più, però si diceva che era già eccessivo il calcio di rigore, insomma, voglio dire. Poi il discorso della chiara possibilità di far gol dipende: se quella palla ce l'avesse avuta Cervinho anche a porta vuota, magari non era una chiara possibilità di gol. Sì, tu dici, magari la sparava chissà dove. Dire, anche con 5 giocatori sulla linea poteva essere. Potremmo inserire questo concetto in più, esatto, di discrezionalità, cioè, esatto, è chiara occasione di rete a seconda di la palla. Anche a capire chi giocatore poi salta al portiere, a quel punto per qualcuno è una chiara possibilità di far gol, per altri è un'impensabile possibilità di far gol. Ma viene battuta, ovviamente. No, adesso, chiaramente. Anche noi con la proposta di inserire il regolamento, questa modifica, il lodo Cosmi. Sai che il board, tutto ciò che aumenta la discrezionalità gli piace, nel senso che. No, vabbè, ma è vero, insomma, sembra delle volte veramente che il calcio sia fatto per godere delle polemiche, cioè che quelli che decidono il regolamento, c'è tutta una serie di norme dove veramente basta che pensi sul fuorigioco, la complicazione del fuorigioco, quant'è. No, però insomma, vabbè, questa è una parentesi. Che cosa dice questa giornata? Che sarà una lotta fino alla fine, Serse, che la Roma è matura a differenza degli anni scorsi, che la Champions League è solo un episodio e che ha reagito bene, oppure magari tra una settimana diremo il contrario? Ma guarda, cioè adesso per quello che riguarda la Champions è nettamente un discorso a parte. Lì la Roma ha dimostrato di essere purtroppo, lo dico, non ancora pronta, perché se tu vai a giocare a Monaco e sei contento di aver perso 2-0, è una competizione che è giusto che, non dico ti esclude, però insomma che ti dà anche la possibilità di essere escluso, soprattutto se l'avversario in cui ti devi giocare tutto è Manchester City. Sì, però non l'ha interpretata bene, secondo me, Serse, col Manchester City. Manchester City cui mancava la spina dorsale, giocatori più forti, eccetera. La Roma a me non è piaciuta come atteggiamento. Quelle sono partite che a livello psicologico non c'era, non dico peggior situazione, l'unica possibilità, cioè l'unico favore era quello di giocare in casa. Però sapete benissimo che nella Champions, se incontri squadre con il Manchester, non conta più neanche quello, insomma, voglio dire. Quindi giocare sapendo anche di fare un gol, ma che se ne avessi subito uno eri comunque fuori, se la giocavi per stare nella tua metà campo era un rischio. Se attaccavi e prendevi un gol in contropiedi, tutti avrebbero detto che era una follia, perché tutto sommato ti bastava lo 0-0. Cioè, sotto l'aspetto nervoso e la pressione che aveva subito in quei giorni, la Roma credo che l'unica giustificazione vera è quella. Non è la giustificazione il pareggio di Cosa Suolo. Voglio dire, quello purtroppo e quindi, cioè, di conseguenza anche quello che è stato in fin dei conti anche il pareggio col Sassuolo, ma non è che uno lo fa per criticare, lo fa perché deve ammettere la realtà. Questo per quello che riguarda la Champions. Per quello che riguarda il campionato, era comunque un campionato diviso da una partita, da Juventus-Roma. Poi le due squadre, tranne in quell'occasione dove c'era stata la vittoria della Juve, sì, hanno fatto il campionato pari fin qui. Hanno fatto un campionato pari, voglio dire, in qualche piccola battuta d'arresto, perché c'è la... Ma Juve chi ti sembra più squadra? Chi ti sembra nelle 38 partite più pronta? Lo so che è una domanda difficile, però anche perché siamo alla quindicesima. Perché io non lo so, perché io sinceramente non lo so, insomma, ci sono delle cose e delle situazioni in cui la Juve mi sembra sempre più matura, ci sono altre volte che penso che la Roma abbia più talento e quindi faccio fatica a capire qual è più forte delle due, non lo so. No, ma è vero, io credo che poi il bello proprio non è tanto il duello tra due squadre che si giocheranno, credo, fino alla fine, insomma, ma proprio la diversità delle due squadre. La Juve è una squadra più feroce, un ambiente più feroce. Io ho visto anche la partita di oggi contro la Sampdoria, al di là che poi si è messa nell'1-1, ma danno sempre la sensazione di voler comunque ottenere il risultato. La Roma è una squadra che la vedo più tranquilla sotto quel punto di vista, cioè gestisce magari la palla e le partite in quello che viene chiamato ormai quasi in maniera noiosa possesso palla, però in realtà è la verità. A volte però non dà la sensazione di essere feroce come magari la Juve lo è, anche oggi nel pareggio poi avete visto, no? Cerca la punizione, cerca fino all'ultimo mezzo, anche il colpo di un singolo. Non è il caso di aprire ovviamente il processo o parlare di crisi della Juventus, no, quindi ha ragione Nedved. Poi qualcuno ha fatto notare però che la Juve nelle ultime 4 ne ha vinta solo una al 93esimo con Pirlo, sì. Il resto sono tutti pareggi. Ha ragione Nedved quando dice: abbiamo già risposto loro molte volte, noi a Torino lavoriamo, loro battono la fiacca e chiacchierano. Ma non lo so. Lui ha detto così, l'ha detto lui. No, quelli sono schermaglie, dai, sono schermaglie. Sì, sono schermaglie dialettiche, poi cioè, per fortuna che chiacchierano, perché se no, cioè, chiacchierando sono un punto dietro, figuriamoci se mettessero a lavorare. Quindi, cioè, io non so, poi Nedved ragazzo, il giocatore è stato straordinario, ma era di quelli fastidioso, insomma, quando giocava, non è che era... Sì. Una classe, una qualità straordinaria, anche un temperamento straordinario. Sì, sei il classico giocatore che se ce l'hai dalla tua parte diventa il tuo eroe, e se ce l'hai contro ti sta profondamente, no? È ovvio, cioè è uno di quei giocatori che tende a essere proprio il massimo possibile dell'agonismo, dell'agonismo della competizione, e quindi è chiaro che insomma si è visto anche oggi l'agonismo di Nedved nella tua squadra, è sceso dalla tribuna in campo, se sta con te lo ami come alla follia, se ce l'hai contro ti sta sulle palle, ma questo credo sia la normalità, evidentemente. Aspetto tecnico eccezionale, questo è indiscutibile. Intanto Gasperini e Preziosi la stanno toccando piano su Banti, poi vi faremo sentire tutto con Giorgio De Luca, autore di questa trasmissione. La stanno toccando pianissimo, è una iattura, guarda, ha detto Preziosi. Io credo che l'unica rimostranza, non l'unica, ma penso quella più giustificata, ecco, io la vedo un pochino adesso dalla parte del Genoa, è che in effetti magari nella situazione di Ljajic poteva fermare il gioco. Sì, la simulazione. Lì, di solito, visto che poi era stato anche concesso un rigore, di solito l'arbitro ferma il gioco e dalla simulazione ammonisce il giocatore. Certo. Può darsi che abbia valutato un intervento, in effetti Ljajic non è che è stato in terra parecchio, si è subito rialzato, quindi... è un'interpretazione, poi vedi la fortuna e la sfortuna degli arbitri, e quello riguarda un po' come i giocatori, come tu. Cioè magari fai un errore che è, diciamo così, veniale, sì, e poi in 20 secondi fa il gol, nasce il gol e succede un disastro. La legge di Murphy, non è Banti, voglio dire. Serse, se hai un minuto, abbiamo il traffico, poi te ne agganciamo subito, traffico. Siamo tutti sicuri che ce la faremo. Allora io faccio 1, 2, 3 e voi dite: Presidente, lei ha ragione. 1, 2, 3. Tutti convocati. 800 24 00 24, Gipardo, Carlo Genta, Serse Cosmi, ti ha deluso la Juve oggi? Non ho capito alla fine se questa Juve che si è buttata un po' via ti ha deluso. Ma no, perché la Juve ha commesso più o meno in maniera diversa l'errore che poteva e rischiava di commettere la Roma. Cioè sull'1-0, quando ha avuto i primi 15 minuti devastanti proprio da Juve quando è in grande giornata, ha fatto gol, poteva raddoppiare, lì è emerso credo anche la qualità della Sampdoria di soffrire in quel tipo di momento. In alcune circostanze ci sono squadre che non ce la fanno a resistere, a soffrire, quindi ha aspettato, ovviamente magari è stata anche, non dico fortunata, però la Juve ha sbagliato qualcosina nell'andare sul 2-0, poi il secondo tempo piano piano ha avuto più fiducia nei propri mezzi, ha trovato il gol e lì l'ha difeso bene, anzi addirittura ha corso il rischio anche di vincerla quella partita, quindi poi alla fine la Juve ha fatto quello che doveva fare, credo, insomma, voglio dire. Credo bisogna dare il merito alla Sampdoria che ha sofferto quando era giusto soffrire e poi è venuta fuori, ha fatto anche sul piano del gioco anche un buon secondo tempo. Beh sì, insomma, una di quelle classiche partite, no, di, veramente divise in due metà, dove, ma non sono poche, ci sono queste partite così. A un certo punto ha ricordato la partita, quella della doppietta di Cardi, Juventus-Sampdoria 2013, Juve che nel primo tempo doveva stracchiuderla, ma se vuoi per la par condicio, sempre con la Sampdoria di mezzo, a me ha ricordato anche quel Roma-Samp del che poi costò lo scudetto alla Roma, del 25 aprile del 2010, perché pure quella fu una partita dominata nel primo tempo. Su quelle partite, se non chiudi poi nella ripresa tutto può cambiare improvvisamente. Oggi la Samp non è riuscita a fare ribaltone, però c'è stata una grande parata di Buffon, la Juve ha avuto più occasioni complessivamente nel finale, ci ha creduto di più, ha spinto di più, però insomma è una partita dove sulle ripartenze della Samp la Juve qualcosa ha rischiato anche sull'1-1. Serse, ci dici come finisce Milan-Napoli? Non so, è una partita meno, cioè secondo me molto più importante di quello che può sembrare una classifica, vabbè, che a oggi dice che il Napoli vincendo va al terzo posto, credo il Milan si ripropone, però può avere dei risvolti anche psicologici diversi, perché tutte e due le squadre, comunque chi più chi meno, sicuramente un pochino più il Napoli perché le ambizioni e le potenzialità erano assolutamente diverse rispetto a quelle del Milan, hanno da recriminare con questi alti e bassi, con questa non continuità che, ripeto, per il Milan non dico che è giustificata, però ci può stare, per il Napoli un pochino meno. Quindi, sì, per il Napoli un pochino meno, quindi partita delicatissima per tutte e due. Ti piace questa cosa, questo atteggiamento così, proprio sprezzo del pericolo, tanto sbaglio talmente tanti pronostici, per me vince il Napoli. Sono un po' morti contro feriti gravi. Sì, il Napoli secondo me sta meglio, dai. Reduce da tre pareggioni. Sì, ma il Napoli queste grandi, le grandi partite, le grandi partite. Vabbè, ma sono cose diverse, insomma. Il Napoli nelle grandi partite, nelle grandi serate di solito si esalta, quando c'è da poi perde i punti con le piccole, questo non è un dettaglio, insomma. Sì, ha fatto questa striscia di 11 risultati, peccato che più della metà 6 siano pareggi. Pierluigi, cioè per le grandi partite, nei grandi stadi, no, voglio dire, grandi stadi oggi giocare a Milano non è che sia necessariamente una grande partita, bisogna sono d'accordo con te, però, però grandi stadi e stadi con grandi società può stimolarli, ti può stimolare, però, secondo me. Ti volevo chiedere se pensi che ci sia anche questa componente, c'è anche un aspetto tattico, nel senso che poi comunque alla fine un conto è giocare, cioè il Milan non è che si può mettere a fare catenaccio in casa contro il Napoli, quindi degli spazi li potrà concedere, penso. Poi è evidente, io credo che, ripeto, quello che si può vedere da fuori è il rischio anche di dire magari qualche stupidaggio. Milan, almeno con Inzaghi, cerca un pochino di non dare veramente dei punti di riferimento agli avversari, perché molto probabilmente ha capito che ha delle difficoltà, ma non con gli attaccanti, un pochino anche con i centrocampisti a trovare imbucate, a trovare altre situazioni, quindi è quell'idea, quella di dare meno riferimenti possibili, di andare in gol possibilmente con altri giocatori. Il rischio mi è capitato anche a me, quindi lo dico senza fare ironia, cioè quando giochi senza riferimenti poi alla fine va a finire che poi i riferimenti non ci sono neanche per te, per i tuoi compagni. Sì, e quindi finisci per non avere il tuo terminale, e questo può essere evidentemente un problema. Grazie Serse. Ciao. Ciao Serse. Ciao, grazie ciao, Serse Cosmi. 800 24 00 24. Beh, poi dopo che Berlusconi ha detto dopo che Berlusconi ha detto che la Champions League è assolutamente un obbligo per il Milan. Buonasera gente e buonasera Capuano. Sì, buonasera. Sento che ci sono anche mele marce. Ci sarei anch'io. Gruppo, esattamente, gruppo non particolarmente coeso. Allora io dico 1, 2, 3 e voi insieme in coro, non l'abbiamo mai fatto, sì, dite, sì. Molte grazie. Ok, vai, vada. Ma prego. Cosa? Allora, 1, 2, 3. Sì. Molte grazie. Molte grazie. Mi sembrate un po' Moschetti. Ma perché dovevo dire molte grazie? Allora. Sì. Vai. Ma allora, non siamo i giocatori del Milan, no. Adesso sì. Io dico 1, 2, 3. E voi dite, Presidente, lei ha ragione. Perfetto. Facciamo una prova di gioco. Va bene. Di gioco. 1, 2, 3. Presidente, lei ha ragione. Applauso, cribio. Hanno fatto anche l'applauso. Ed cribio ed ultra cribio. Vi trovo abbastanza coesi. Sì. E il vostro è un atteggiamento molto positivo. Nonostante il Milan abbia cambiato formula di gioco. E allora... 1, 2, 3. Presidente, lei ha ragione. Montari è un bravo ragazzo. No, Presidente, uno, no, è un bravo ragazzo. Perché no, è un bravo ragazzo. Montari è un bravo ragazzo. No, è così. Montari non è stato multato, beh, perché l'ha detto Inzaghi. Beh, però... devo dire che Inzaghi lì si era cavata bene, nel senso che era l'unica cosa che potesse dire. Che vuole intensità, che non c'era cattiveria, che quindi queste cose possono succedere. Poi però... Montari, ma guarda, Montari, tanti anni fa, quando forse ancora in Italia era al Chelsea, lavorava già con Stefano Tirelli, che è un preparatore che lavora molto con i giocatori africani, che è un preparatore sia fisico che psicologico, e lavorava moltissimo su questo aspetto. Della riduzione dell'aggressività in campo, della gestione dell'aggressività, devo dire, non sempre con grandissimi risultati, però diciamo che la consapevolezza del fatto che questi scatti, diciamo, di eccessivo agonismo tante volte lo potessero limitare, Montari che resta, vabbè. Montari è un giocatore. No, non sto scherzando. No, Montari è un giocatore che negli anni migliori ha fatto cose importanti. Anzi, lo trovo non è un fine dicitore, non è Pirlo. Sì, lo trovo abbastanza sottovalutato. Non è Pjanic. Secondo me è un buon giocatore. Secondo me è pure meglio del tanto decantato De Jong, con i piedi. Comunque la notizia di questa settimana è che per la prima volta dall'inizio della stagione Berlusconi ha messo un po' di pressione su Inzaghi, andando lì e dicendo: sì, io sono sicuro che questa squadra arriverà alla Champions League. Il risultato è che ieri Inzaghi gli ha detto: forse non siamo ancora pronti per il terzo posto. Poi questa sera c'è questo Milan-Napoli, che è lo spartiacque della stagione sia del Milan che del Napoli. Ci dobbiamo fermare, c'è Bet Corner. Pier, tu ti fermi o vai? Ci avrei la moglie. Vai. Ci vediamo domani. Ciao. Bet Corner. Quote e pronostici. Milan-Napoli è il posticipo della 15ª giornata di Serie A, una gara che mette in palio punti che pesano per la corsa al terzo posto. Vediamo dunque le quote SNAI per questa partita. L'1, il successo dei rossoneri, è quotato 2,70, l'X è a 3,30. Il 2 invece, con la vittoria del Napoli, è quotato 2,60. Gol per questa partita, quotato 1,65. No gol, quotato 2,10. Nella Liga in campo tra poco alle 19, Atletico Madrid contro Villarreal. L'1, il successo dell'Atletico, è quotato 1,60, l'X è a 3,85, il 2 con il successo del Villarreal è quotato 5,50. Alle 21 la Real Sociedad attende l'Athletic Bilbao, sempre nella Liga. L'1, il successo della Real Sociedad, è quotato 2,40, X a 3,30, 2 quotato 2,90. Chiudiamo con il big match della Ligue 1. Alle 21 alla Louis Doce Monaco Marsiglia. L'1, il successo dei monegaschi, è quotato 2,60, l'X è 3,15, il 2 con la vittoria della capolista Marsiglia è quotato 2,80. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi, noi ci risentiamo domani. Convocati. Sono dispiaciuto, sono veramente dispiaciuto, ma per come è andata la partita, non tanto per la sconfitta, perché con la Roma si può anche perdere. Però insomma, giocare tre quarti partite in dieci è stato veramente pesante. Io sono stato espulso nell'intervallo, ma penso che quello un po' agitato fosse l'arbitro Banti, non io, che ha pensato di allontanarmi. Io ho semplicemente fatto notare che nei due episodi del rigore prima e l'altro del gol sul fallo, sulla simulazione di Ljajic, erano stati due episodi sfavorevoli e sfortunati per noi. La vera differenza ormai la fanno la gestione dei cartellini, e quindi che si dà, dove si danno interpretazioni diverse anche in episodi molto simili, e quindi è veramente lì la difficoltà. Quindi su quello poi dopo io dico che poi quando si gioca in 10 contro 11 sono altre partite. Ci ha rimesso la partita, ci ha rimesso la gara. Io credo che noi in 11 contro 11 avevamo l'energia, ma questo lo credo io, avevamo l'energia per fare un altro tipo di partita, sarebbe stata molto più dura per la Roma. Gasp. Questo è lo sfogo di Giampiero Gasperini al termine di Genoa-Roma, l'ha toccata piano, 800-24-00-24, beh, normale, dai, c'è anche di più, normale. Poi ve lo facciamo sentire perché c'è il presidente del Genoa Preziosi che è andato giù durissimo in una domenica che va agli archivi, sicuramente per i due punti recuperati dalla Roma sulla Juventus. E la classifica l'abbiamo letta, Juventus 36, Roma 35, e non era scontato alla vigilia di una gara in cui la Roma giocava in casa della terza in classifica, ma soprattutto va agli archivi sotto i nomi dei signori Doveri e Banti, di cui si parlerà molto in un campionato di aiutini, di violini, segnato già da quella partita, quella del 5 novembre a Torino tra Juventus e Roma. Poi c'è Preziosi che ha detto non siamo riusciti a sentirlo, nemmeno Sky è riuscito a farlo ascoltare. Adesso lo recuperiamo. Ho letto un cartello di Sky, avrebbe detto: a Roma stanno succedendo tante cose, non vorrei che fosse coinvolto anche il calcio. Te lo faccio sentire. Cosa vuol dire? Te lo faccio sentire. Penso che quello un po' agitato fosse l'arbitro Banti, non io, che ha pensato di allontanarmi. Io questo è Gasperini. Ho semplicemente fatto notare che nei due questo episodi... Questo è Gasperini, adesso allora recuperiamo Preziosi con il suo attacco. Ha detto il presidente del Genoa: stanno succedendo cose strane a Roma, non vorrei fosse coinvolto anche il calcio. Cosa vuol dire, secondo te? E poi ha detto anche: mi spiace per l'arroganza di certi arbitri che vengono qua a innervosire il pubblico. Secondo me Banti non sa gestire le gare, come nel caso della munizione di Perotti, quando invece il fallo di mano l'ha fatto l'avversario. Io davvero non riesco a capire. Oh, Banti, che un anno fa era finito nei guai con la Roma per l'arbitraggio di Torino-Roma 1-1 e per la cena nello stesso ristorante dei giocatori di Ventura, con tutte le polemiche, era finito addirittura sulla prima pagina del Tempo. Questo per dire che il nostro campionato ci regala sempre degli spunti. Si presta abbastanza, ma d'altra parte cosa voleva dire Preziosi? Cosa voleva dire Preziosi? Sentiamolo. Nervosisce molto il pubblico con certe decisioni, al di là se è in buona fede o mala fede, però non si può dare responsabilità all'arbitro quando si incontra una Roma in 10. Una Roma in 10, questa Roma è difficile batterla in 10. Ci poteva stare, io non so se c'era questo po' di gioco e se c'era dominio, ma so che anche questa decisione qua è stata molto dubbia, per cui mi dispiace, perché a Roma sta succedendo un po' troppe cose, stanno succedendo a Roma, non vorrei che fosse coinvolto anche il calcio. Cosa vuol dire? Non riesco a capire, anzi, se ci aiutate da casa o se ci proviamo a chiamare Preziosi, lo diciamo a Giorgio De Luca, un'interpretazione autentica, autore di questa puntata, questa frase sibillina, perché ovviamente a Roma sta succedendo di tutto e sono cose che non hanno assolutamente nulla a che fare con il mondo del calcio, sono cose anche più gravi di un, ma molto più grave, ma voglio un cartellino rosso, di un calcio di rigore, di un'espulsione, e non riusciamo a capire il nesso. Intanto Ferruccio da Caserta. Ferruccio. Eccoci. Pronto? Prego. Pronto? Prego. Dica. Ferruccio. Pronto? Ferruccio, devi spegnere la radio e oppure possibilmente proviamo a recuperarlo. Intanto questa sera c'è Milan-Napoli, che è partita importante, forse decisiva per tutte e due le squadre. Chi ci arriva più in crisi? Ah, c'erano in crisi tutte e due, Giovanni. Lo dicevo prima quando c'era Sesse Cosmi, secondo me è una partita... Non è una bella espressione, ma morti contro feriti gravi rende. E il Milan è in un pessimo momento. Ha giocato una brutta gara anche a Genova domenica. Il Napoli, onestamente, è reduce da dalle ultime tre partite sconcertanti: 3-3 in casa con il Cagliari, pareggio per il rotto della cuffia immeritato a Genova con la Sampdoria, e poi il 2-2 in casa con l'Empoli. Quindi è un Napoli che, quando sembra aver trovato le misure giuste, sembra aver trovato il passo giusto, aver risolto i suoi problemi, ci ricasca tutte le volte, non dà assolutamente segni di solidità. Poi tutte e due vorranno ricorrere al mercatino natalizio, non so con quali prospettive. Sì, Napoli che ha già messo lì un colpo importante, quello di Gabbiadini, certo, che è un giocatore che certamente migliorerà la qualità complessiva della rosa di Benitez. Lorenzo da Firenze, Lorenzo. Siamo molto sfortunati con le linee telefoniche, Lorenzo, oggi. Lorenzo. Allora ci fermiamo, facciamo il traffico, poi torniamo, vediamo se c'è Lorenzo e andiamo avanti. Traffico. Ascoltandovi rimpiango il mio corniciaio, che è la persona più intelligente conosciuta in vita mia. Tutti convocati. Io dico 1, 2, 3 e voi insieme in coro, non l'abbiamo mai fatto, facciamo solo per voi, dite molte grazie. Sono loro che ci pagano lo stipendio. Allora, 1, 2, 3. Ci sono sempre col presidente, c'è stato prima della partita, c'è stato all'intervallo, c'è stato oggi. Il presidente ci porta sempre tanti consigli, tanto entusiasmo. Io poi cerco di trasmetterlo alla squadra, come ho fatto domenica a fine primo tempo. Il fatto del presidente è veramente, il suo entusiasmo è incredibile. Quando viene, porta anche nei giocatori una voglia, e sono felice che, insomma, se tutti i venerdì viene, siamo molto felici di accoglierlo. Questa è casa sua e devo dire che lui è veramente una persona che ci può far fare la differenza. Penso che la sua presenza sia qualcosa di molto motivazionale per i ragazzi, sentire questa sua voglia di starci vicino. Lui veramente ha una parola bella per tutti e soprattutto quando uno ha bisogno lui c'è sempre. Siamo tutti sicuri che ce la faremo. Allora io faccio 1, 2, 3 e voi dite: presidente, lei ha ragione. 1, 2, 3. Meraviglioso. Ma povero Pipizza, che cosa deve dire? No, che tra l'altro lui alle visite pastorali è abituato da lustri, no? Prima da giocatore, adesso da allenatore. Cosa deve dire? Beh, Berlusconi ha preso questo giro, no? Servizi sociali e poi prima di andare a casa, passa da Milanello. Chi gli va a dire: tu no, qui non puoi entrare, che dobbiamo lavorare, no, abbiamo una partita per preparare. No? Però nessuno nemmeno gli ha detto: presidente, Enrico Currò, Repubblica. Enrico. Ciao. Ciao. Nessuno Ciao. Gli ha detto: presidente, 1, 2, 3, facciamo Ciao, la prossima volta. Dicono no? A Milano. Vabbè, però questa è una cosa alla quale siamo abituati tutti noi italiani da 20 anni, perché di annunci e di promesse non ne ha fatti mica solo nel calcio, quindi insomma prendiamola così com'è. È chiaro che i tifosi mi sembra che non si lasciano più tanto incantare, e le perplessità che circondano il Milan sono tante. E poi la cosa incredibile di Berlusconi è che lui parla come se il Milan non fosse suo, cioè arriva lui, fa la visita pastorale, dispensa consigli come se il Milan appartenesse a qualcun altro e la campagna acquisti in qualche modo non fosse stata avallata da lui. Però alla fine effettivamente una cosa è vera, che siccome il livello del campionato italiano non è in questo momento altissimo e siccome la differenza tra le squadre che stanno dopo Juventus e Roma non è molto grande, in effetti basta forse imbroccare un po' certe partite, certe situazioni, e si può anche arrivare terzi. È molto difficile che il Milan arrivi terzo, però potrebbe anche capitare. Te dico, questa volta c'è stata una svolta epocale, perché dopo moltissimi anni in cui il Milan veniva venduto come una squadra da scudetto, quest'anno non è più accaduto, perché anche l'anno scorso, non dimentichiamoci che inizio stagione si diceva: ok, l'obiettivo è lo scudetto. però viene venduta come una squadra al terzo posto, onestamente, insomma, ci sono delle squadre più forti del Milan. Tra l'altro, secondo me, vale una considerazione che mi ha fatto venire in mente l'allenatore del San Lorenzo, che ho intervistato recentemente, e spiegando la situazione del calcio argentino, ha detto che sostanzialmente nel campionato argentino può accadere con grande facilità da un anno all'altro che le classifiche si ribaltino, perché essendo i 20 migliori giocatori argentini non nel campionato argentino, il resto è più o meno dello stesso livello, e quindi ci vuole poco perché gli equilibri cambino. Secondo me lo stesso discorso vale per il campionato italiano, dove, eccettuate Juventus e Roma, la Juventus ha, oltre a Tevez, anche direi a Pogba, ha anche i migliori calciatori italiani, la Roma ha forse qualcuno dei migliori calciatori stranieri, per il resto mi sembra che sia successa la stessa cosa, cioè siccome i migliori stranieri non giocano in Italia e gli italiani, eccettuati quelli della Juve, più o meno non fanno la differenza, allo stesso livello non fanno la differenza, può capitare che ci sia un equilibrio veramente forte, pur in assenza di squadre di nome, cioè non è che la differenza tra il Milan e il Genoa in questo momento sia davvero a livello di uomini abissale, certo. Sì, non è un caso che in questo momento davanti al Milan in classifica, a parte Juventus e Roma, ci siano Lazio, Sampdoria, Genoa, c'è il Napoli, alla pari del Milan ci sono Fiorentina, Udinese, Palermo, ovviamente il Palermo, l'Udinese hanno una partita in più, Fiorentina 21esimo del primo tempo a Cesena, partita che è ancora ferma sullo 0-0. Mi è parso complessivamente, leggendo anche tra le righe delle risposte di Inzaghi ieri, Inzaghi sempre molto allineato, che però questa certezza che il Milan l'anno prossimo farà la Champions League l'allenatore oggi non ce l'ha, o se anche ha l'idea che si possa fare ritiene forse prematuro dirlo ad alta voce. Enrico? Sì, no, non lo dice perché è sbagliato dirlo, perché comunque la politica degli annunci paga fino a un certo punto. Tra l'altro teniamo conto di una cosa, che l'aver abituato il pubblico del Milan e dell'Inter a determinati spettacoli e a determinati calciatori per tanti anni fa sì che sia diventato un pubblico molto competente, ma non solo quello che va allo stadio in generale, quindi è abbastanza difficile contrabbandare per grandi calciatori ai tifosi italiani, ai calciofili italiani, dei calciatori che grandi non sono. Quindi è chiaro che poi Inzaghi, che è molto realista anche per come sta facendo giocare il Milan, a volte pure fin troppo realista, se realista può essere anche a volte un sinonimo di provinciale, diciamo così, che è un atteggiamento che secondo me non è totalmente sbagliato, perché è un atteggiamento realistico, pragmatico, però è sicuramente un atteggiamento al quale che i tifosi non erano abituati, a un atteggiamento che spiazza, e lui ha scelto questo, ha scelto anche nelle dichiarazioni tutto sommato il basso profilo, e secondo me è giusto che faccia così. Sì, poi tifosi abituatissimi a Milano, non è un caso che da un paio di anni a questa parte, sponda Milan e sponda Inter, San Siro si presenti quasi sempre con i 30.000, che sono quanti ne facevano una volta Milan e Inter soltanto d'abbonamento nelle annate andate male, e non dobbiamo tornare indietro agli anni 80, al primo Milan di Berlusconi, ma basta semplicemente buttare l'occhio a quello che accadeva fino a 5-6 anni fa. Avete avuto l'impressione, vi chiedo, che per la prima volta Berlusconi abbia messo un po' di pressione comunque su Inzaghi, fin qui protetto anche al di là dei risultati, lo dicono i punti, 21 in 14 partite, peggio, molto peggio anche di Seedorf, che era già stato ripudiato a questo punto, 7 nelle ultime 7, cioè altrove se sei in un grande club con 7 punti nelle ultime 7 partite si sarebbe parlato apertamente di crisi, parola che al Milan sembra bandita. Enrico? Ma io credo che Inzaghi si trovi in una situazione invidiabile dal punto di vista della protezione societaria, nel senso che forse nessun allenatore, anzi sicuramente nessun allenatore, nemmeno Ancelotti nei suoi tempi, compattava così tanto il fronte della società, perché Inzaghi ha dalla sua parte Galliani, perché è praticamente stato il suo sponsor principale all'inizio. Barbara Berlusconi, che ha apprezzato molto, anche recentemente l'ha detto nell'ultimo incontro che c'è stato con la stampa, il suo lavoro. E naturalmente Berlusconi, col quale c'è anche una componente psicologica non irrilevante, trattandosi di un allenatore neofita, è anche più portato naturalmente ad accettare senza discussioni i suoi consigli, che magari invece venivano accolti in maniera molto più scettica o con più fastidio dai predecessori. Sì. Quindi diciamo che sicuramente Inzaghi, per la società, per la triade che in questo momento sta al vertice della società, è nettamente l'allenatore ideale. Dopodiché è chiaro che, siccome gli allenatori sono schiavi dei risultati, se Inzaghi prima della sosta natalizia, della sosta di fine anno, non dovesse ottenere i risultati che spera di ottenere, e gli avversari non sono certo i migliori, perché, sì, perché chiude male, Roma, c'è la Roma la prossima settimana, il calendario non è proprio il massimo, e a quel punto almeno mediaticamente Inzaghi verrà messo in discussione. Poi, sì, poi c'è qualcuno che dice, Harry, c'è qualcuno che dice che il Milan sarebbe quasi ora che prendesse un allenatore finito dopo l'esperimento del giocatore da panchina, Seedorf, Inzaghi, il materiale non è esattamente il migliore, quindi magari prendiamo uno che ci sa fare e che ha un po' più di esperienza e vediamo cosa succede. Volevo chiederti un'ultima cosa, ma tutto sommato però per il Milan è una grande settimana, abbiamo letto dello stadio, quindi si farà lo stadio rossonero, è fatta? Ci crediamo fino in fondo? Togliamo ogni velo? L'accendiamo? Ogni dubbio? La grande capacità del Milan è proprio questa, che di fronte a una stagione come quella che sta vivendo, che non è esattamente un successo, riesca a trasformare mediaticamente appunto questa stagione in una stagione anche bella, con un sacco di buoni propositi, di progetti, eccetera. Pare che sia imboccata la strada di questo nuovo stadio, oggettivamente, perché il progetto esiste, l'area un po' meno al momento, però insomma il progetto c'è, sembra che tutti si siano convinti, sembra anche che si sia trovata la strada economica per cercare di risparmiare qualcosa e di non fare gravare tutto sulle casse della società. Però io mi chiedo soltanto una cosa: quando il prossimo anno ci sarà San Siro, che resta oggettivamente uno stadio molto bello, con la metropolitana, ma come si farà a spiegare alle persone che poi si fa uno stadio da un'altra parte? A me è questa che la cosa che lascia un po' perplesso. Sì, anche la questione della capienza, che così come è stata descritta sembra sinceramente sottodimensionata, perché il Milan non è stato e probabilmente tornerà a non essere quello che abbiamo adesso, e che, ripeto, ha meno di 20.000 abbonati, fa fatica ad arrivare a 30.000. Il Milan è abituato a ben altri numeri, che sono poi numeri che servono anche per pensare di costruire un progetto economico che ti riporti tra le prime 10 del mondo. Fermiamoci però al piccolo cabotaggio del Milan-Napoli di questa sera. Grazie Enrico Currò. Ciao Enrico. Ciao, ciao, ciao. Ci sono Alessandro da Firenze, Vanni dalla provincia di Varese. Ci fermiamo un minutino di pubblicità, poi torniamo. Tutti convocati. Nervosisce molto il pubblico con certe decisioni, al di là se sei in buona fede o in mala fede, però non si può dare la responsabilità all'arbitro quando si incontra una Roma in 10. Una Roma in 10, questa Roma è difficile batterla in 10. Ci poteva stare, io non so se c'era questo po' di gioco e se c'era dominio, ma so che anche questa decisione qua è stata molto dubbia, per cui mi dispiace, perché a Roma sta succedendo un po' troppe cose, stanno succedendo a Roma, non vorrei che fosse coinvolto anche il calcio. Noi ancora siamo a caccia dell'interpretazione autentica delle parole del presidente Preziosi. Sinceramente non riesco a capire a che cosa si riferisca dicendo. Anzi, se avete un'idea, se gli ascoltatori hanno un'idea, ce la diano. Siamo qui, perché noi siamo in mezzo alla nebbia. A Roma stanno succedendo cose strane. Vabbè, a Roma e sappiamo strane, che cosa. Ma ne sappiamo molto. Non vorremmo che fosse coinvolto anche il calcio. Che vuol dire? A Mafia Capitale, non lo so. 800 24 00 24. C'è un amico simpatico che ci dice: ma sulla Roma fate gli ingenui coglioni, Luigi. Cioè? ma non lo so, noi abbiamo detto che oggi anche la Roma, parlate chiaro, è stata aiutata, insomma, complessivamente nella gestione degli episodi, sì, oggi di sicuro non è andata male la Roma. Io non so cosa dovevamo dire, carissimo Luigi. Alessandro da Firenze. Sì, Alessandro, buonasera, prego. Salve. Senti, sono una piccola considerazione. Io ho vissuto tanti anni a Londra e mi sono un po' allineato alla cultura sportiva inglese. Poi sono entrato in Italia da qualche mese. Non sono un tifoso juventino, premetto, quindi non c'ho da difendere la Juventus. Entro, rientro, vedo la prima partita Juventus-Roma con tutto quello che è successo, no? Con una settimana di attacchi, addirittura interpello anche un po' più di una settimana, Alessandro, eh? Sì, voglio rimanere conservativo, con niente da dire sul nome, con il capitano della Roma che addirittura va al telefono, va intervistato e comincia a denunciare la Juve, il portiere uguale. Poi dopo poco c'è la situazione col Sassuolo e quella di oggi col Genoa. Allora io dico, no? Non sto a dire alla Juventus che deve dire, io dico, faccio solo una considerazione, ma ci rendiamo conto come in Italia veramente la cultura sportiva sia veramente molto bassa? Tra i primi attori, i primi attori, quelli che giocano in campo, che dovrebbero dare il buon esempio. Sarò un idealista, ma a me piace come in Inghilterra, ci picchiamo, poi dopo ci dà la mano e si va tutti a bere una birra. Sì, in Inghilterra, dove oggi però stanno discutendo per un fuorigioco di un metro di Mata in Manchester United Liverpool. Vorrei smontare il quadretto sulla Premier League. No, ma mi creda, dura pochissimo. Non ci fanno certo un interpello come ha fatto da noi in Italia. No, su questo non c'è dubbio. In Parlamento hanno cose più serie da fare che pensare agli arbitri del nostro campionato. Però anche l'Inghilterra, così come la Spagna del resto, dove Real Madrid e Barcellona si fanno una guerra spietata su ogni micro episodio da moviola. È vero, però li posso assicurare, e mi creda, io non ho mai sentito il capitano della Manchester United, Rooney, né tantomeno Gerrard, andare in televisione e dire finché c'è, questa è la cultura sportiva del Manchester United, che ci siano loro, salirà sempre. Potremmo fare un altro campionato. Sì, Wenger, Mourinho e Ferguson, qualche volta qualcosina hanno detto, si è sentito. Ma noi amiamo la Premier League, per carità, amiamo anche evitare di ogni tanto di fare i tafazzi e dire che succede solo da noi. Certo, sì. Noi ci mettiamo, mi fate risentire Preziosi, perché io ho questo dubbio che non riesco a togliermi sulle parole di Preziosi. Nervosisce molto il pubblico con certe decisioni, al di là se sei in buona fede o in mala fede, però non si può dare la responsabilità all'arbitro quando si incontra una Roma in 10. Una Roma in 10, questa Roma è difficile batterla in 10. Ci poteva stare, io non so se c'era questo fuori gioco e se c'era dominio, ma so che anche questa decisione qua è stata molto dubbia, per cui mi dispiace, perché a Roma sta succedendo un po' troppe cose, stanno succedendo a Roma, non vorrei che fosse coinvolto anche il calcio. Intanto ringraziamo un amico che ha scritto per aggiungere un episodio alla nostra moviola, quella che ti consegno per domani, ti do il foglio. Calcetto di Totti a Bertolacci a terra sotto gli occhi di Banti, impunito. Vanni dalla provincia di Varese. Sì, buonasera, grazie per avermi convocato. Eccoci. Avevo tre cose veloci, sarò brevissimo. Siamo qui. Uno, penso che uno dei problemi della Juve quest'anno sia Vidal, che non è neanche la metà del livello degli anni scorsi, e non si capisce bene il perché, visto che dicono tutti che è guarito. Secondo, Garcia, io sono juventino, mi era molto simpatico l'anno scorso, non perché è arrivato secondo, ma quest'anno sta diventando la brutta coppia di Mourinho, piange, aizza sempre contro tutti e nessuno gli fa notare i favori che ha avuto dopo la partita con la Juventus, che non meritava di perdere, lo dico sinceramente. A prescindere dagli episodi, non stiamo a riaprire il file di Juventus-Roma. Esatto, però lui mi sembra che stia un po' esagerando, nessuno glielo fa mai notare. Sì, però ha ragione quando dice Vanni che, numeri alla mano, il campionato della Roma fin qui è stato straordinario, perché con sei partite in più e che partite di Champions League, la Roma è più o meno a livello di galleggiamento come l'anno scorso, su valori altissimi. Ma perché, perché dovrebbe stare zitto Garcia? No, dico, non, cioè, dovrebbe anche ammettere quando i favori gli vanno a favore. Chi lo fa? No, sono d'accordo, però gli altri non fanno come fa lui, non è che gli altri piangono come fa lui, non mi sembra di sentire gli altri piangere come fa sempre lui. Dipende. Anche a distanza di, io capisco subito dopo la fine della partita Juventus Roma, ma che a distanza di un mese continui a izzare il popolo. Ma contro... fa, però fa il suo gioco, dai, fa il suo gioco. No, cioè, nella, io ricordo negli spogliatoi di Torino, dopo quella partita fu anche pacato Garcia. Poi cambiò strategia, no, per fu Totti a dire quelle cose, ma perché Totti, in nome di quella fascia della romanità, di ciò che rappresenta, si è sentito andare lì a dire quelle cose, ma che poi nella, così, nella battaglia dialettica, nel confronto dialettico, io non ci trovo niente di peccaminoso. Quindi Garcia sta seguendo la sua strategia, che ha un intento chiaro, cioè quello di mettere pressione su chi fischia la Roma e chi fischia la Juventus. Nelle ultime due domeniche ha funzionato, Però non lo ammetterà mai. Si chiamano Mind Games. Noi abbiamo avuto per due anni il numero uno mondiale assoluto, credo di tutti i tempi, José Mourinho, che adesso è tornato a allenare in Inghilterra. Quest'anno, per il momento, non ha bisogno dei Mind Games. Vediamo da qui a giugno. Paolo da Udine, grazie intanto, Vanni. Paolo, sì, pronto, eccomi qua. Eccoci. Allora, chiedevate una dritta per eventualmente su cosa volesse dire Prezioli. Sì, stiamo cercando disperatamente qualcuno in grado di decrittare le parole di Preziosi. Allora, se vi ricordate, andate a spulciare un paio di anni fa, due o tre anni fa, quando è uscito lo scandalo dell'organizzazione delle scommesse portata alla luce della procura di Cremona, e fra i vari nomi che erano stati fatti a Roma coinvolti in questa possibile organizzazione con ramificazioni internazionali è stata anche quella di Massimo Carminati, l'ex Nara, Banda Magliana, sì, eccetera eccetera, ed era uscito questo nome anche sui giornali. Io credo che Preziosi si riferisse a questo, che secondo lui anche fra le tante attività c'era anche questa cosa. Sì, comunque il nome era ipotesi affascinante, poi verificheremo. Io sinceramente non mi ricordo, c'è da dire che Carminati in questo momento sta a Tolmezzo nel carcere, ma e quindi non si capisce che legame possa avere con l'arbitraggio di Banti, probabilmente sbagliato. Poi domani leggeremo attentamente tutte le movioli di oggi a Marassi, però effettivamente quelle parole di Preziosi lasciano un po' così, lasciano un po', perché viene difficile pensare che cosa in realtà davvero possa aver messo nel mirino, se non magari lo sfogo di un presidente particolarmente arrabbiato dopo una partita che è finita anche con qualche momento di tensione nel tunnel verso gli spogliatoi. C'è stato Pozzo dopo la partita con il Milan a San Siro e oggi c'è stato Preziosi, ma che, ripeto, va bene anche questo, va bene anche il sottolineare con vigore il fatto che si sia stati danneggiati. Lo fanno tutti, con moderazione si può anche farlo. È chiaro che quando uno comincia a fare certi collegamenti, no, allora è meglio spiegarli, sarebbe meglio capire che cosa intendi. E senza usare troppi giri di parole. Tu ti aspetti che la Juventus in qualche modo cavalchi l'onda delle polemiche sugli aiutini? Assolutamente no. Non mi aspetto assolutamente che la Juventus cavalchi questo tipo di polemica. Intanto domani tocca all'Inter, tocca a Mancini. Io credo che quello che noi abbiamo fatto nel primo tempo è cercare di aumentare e riuscire a tenere il più possibile, sapendo che in una partita le cose possono cambiare in negativo e in positivo, quindi nelle negatività la squadra deve mantenere la sua tranquillità, la sua calma e la sua consapevolezza. E io penso, dopo averci lavorato comunque per 20 giorni, che i ragazzi abbiano molto da dare, ma molto di più di quello che loro hanno fatto fino ad oggi. E nelle cose bisogna solo crederci, volerle fino in fondo, e credo che sarà una squadra che potrà dare delle soddisfazioni. E sicuramente qualcosa da fare c'è, perché comunque per voler giocare in un modo un po' diverso abbiamo mancanze in certi ruoli, quindi probabilmente qualcosa faremo, insomma, adesso non so come, non so dove, non so quando, però credo che la società è nelle condizioni di poter fare qualcosa per gennaio. Questo è Mancini, che ci sta provando in tutti i modi a tenere vivo un ambiente che sta virando rapidamente verso la depressione, malgrado la scossa dell'esonero di Mazzarri. Intanto saluto Marco Barzaghi, collega di Sport Mediaset. Ciao Marco. è caduta la linea, adesso lo recuperiamo. Beh, oggi Mancini ha parlato anche di Balotelli, Balotelli di questa suggestione rilanciata oggi dai giornali inglesi. Sentiamo Mancini. In Inghilterra continuano a scrivere di un possibile ritorno di Balotelli. Io ti chiedo se continui a sentirlo, se l'hai sentito ultimamente. No. Io penso l'ultima volta che ho parlato con lui è stato a Londra, prima di una partita che poi lui ha lasciato, che è tornato in Italia. È l'ultima volta che ho parlato con Mario, quindi circa 2 anni fa. Quindi non lo sente da 2 anni, però quando gli chiedono se davvero potrebbe essere il ritorno in Serie A con lui, la mossa per far rinascere Balotelli, sentitelo Mancini. Guarda, io sono un grande tifoso di Mario, gli voglio bene come per quello che è come ragazzo, e la mia speranza è quello di vederlo un giorno felice, che possa sul campo fare quello che è capace di fare e lasciare da parte tutte le altre cose che non sono importanti. Questa è la mia speranza per il bene che gli voglio. Intanto ha segnato la Fiorentina, Borca Valero Cesena 0, Fiorentina 1. Marco Barzaghi, ciao. Buonasera a tutti. Torna Balotelli? Ma vi dirò, questo di Mancini è un bel bluff. Quando mi ha risposto a mia domanda che non lo sente da 2 anni, io so di per certo che l'ha sentito di recente, quindi sotto questo bluff ci potrebbe essere qualcosa, però chiaramente dall'Inghilterra insistono, ipotizzano anche uno scambio con Guarin, però ci sarebbe anche un grave problema ambientale. Mi ricordo certo, l'ultima volta che si era presentato a San Siro, la curva dell'Inter l'aveva fatto scappare via, che non dimentica il lancio della maglia nella semifinale di Champions col Barcellona e poi chiaramente i suoi trascorsi successivi al Milan. Sì, però diciamo la verità, di solito gli allenatori quando vogliono scappare da domande scomode di mercato troncano lì, e invece oggi Mancini c'è rimasto su anche poi nella valutazione. Falso bersaglio, dai. È un suo tifoso. Falso bersaglio. Vedremo. Nel quindi è un'ipotesi che può avere un giocatore fondamento. E di allenatore. Cioè, è un'ipotesi che ha senz'altro fondamento. Magari la faranno digerire ai tifosi dell'Inter, non lo so. Abbiamo non credo Toir, proprio. Toir, che è comunque molto sensibile alla piazza, aveva fatto retromarcia subito allo scambio Guarin-Vucinic, quindi la vedo molto difficile anch'io. Sì, dovranno farla digerire anche agli ispettori dell'UEFA, perché poi noi parliamo del mercato, Cerci, Lavezzi, Balotelli, Lucas Leiva, se avete altri nomi aggiungeteli. Poi la verità è che l'Inter ha lì la troica, ha una situazione complicatissima di il conti. Il cambio di allenatore è costato 40 milioni più su per giù, quindi è molto molto complicata, deve assolutamente vendere qualcuno per dare quei rinforzi che, come abbiamo capito oggi, Mancini si aspetta assolutamente, e più di uno in diversi reparti chiave: un regista, un esterno alto, probabilmente anche un esterno basso, un difensore centrale. Un grosso punto di domanda. Sì, diciamo la verità, mi viene in mente che forse l'arrivo di Balotelli potrebbe essere l'unico motivo per cui accettare la cessione di Icardi, magari già a gennaio. Su Icardi oggi mi è sembrato freddino Mancini, però adesso andiamo avanti a parlarne anche con Marco Barzaghi. C'è il traffico. Sono stato convocato dalla nazionale perché me lo merito, perché sono umile e sono il migliore di tutti. Con voi però non parlo. Via, date via. 1, 2, 3. Tutti convocati. Intanto è finito il primo tempo a Cesena, Fiorentina avanti 1-0, gol di Borca Valero. Fiorentina che in questo momento settima in classifica, quota 23 punti, vicinissima alla zona Champions, e 2 punti sopra Milan, Udinese e Palermo. Milan che, lo ricordiamo, ospita il Napoli alle 20:45. Per chiudere invece il discorso sull'Inter, suggestioni di Balotelli a parte, penso, Marco, che davvero la trasferta di Verona sia il crocevia di questa stagione. Dovesse andare male anche lì, sarebbe poi difficile per Mancini a gennaio poter ipotizzare anche una campagna acquisti, pur con qualche sacrificio, per provare a dare l'assalto al terzo posto. Ma direi sicuramente, perché la classifica dice adesso 12° posto, Mancini non la vuole guardare, continua a parlare del terzo, però se veramente non riuscisse ad avere una vittoria domani sera, inizierebbe veramente a essere preoccupante, e un Inter invischiato nella lotta a salvezza, che ne dica Mancini. Comunque la situazione è veramente difficile. Se non riuscirà a guarire nella testa soprattutto questa squadra, che abbiamo visto veramente molto debole con l'Udinese, iniziano veramente i problemi grossi. Sì, anche per questo sta ripetendo come un mantra, l'ha fatto anche oggi: sono convinto che questa squadra è competitiva, lotterà fino alla fine per il terzo posto, può vincere l'Europa League. Sta lavorando sulla testa prima ancora che sugli schemi. Sì, però abbiamo visto quanto è debole questa squadra, che alla prima difficoltà si scioglie come la neve al sole, come con l'Udinese, come in tante altre occasioni, quando per esempio a Parma penso che l'Inter abbia veramente giocato la partita più brutta della stagione a Parma contro questo Parma, che abbiamo visto tutte le difficoltà che ha. Quindi è sicuramente una squadra da guarire e non so se Mancini ci riuscirà. Grazie Marco. Grazie a voi. Grazie a Marco Barzaghi, collega di Sport Mediaset. A proposito di squadre, oggi l'Udinese ha perso, non più tardi di domenica scorsa, era passata da dominatrice. Gran gol di Toni, 300. Grandissimo gol di Toni, era passata da dominatrice a San Siro. Vincenzo dalla provincia di Salerno, Vincenzo. Salve, buonasera. Prego. E complimenti per la trasmissione. Niente, io innanzitutto vorrei fare una premessa. Il discorso è questo qua. Cioè, voi conoscete Preziosi, è una persona abbastanza verace. Sì, impulsiva. Quindi, molto impulsiva. Quindi penso che quello che volesse indicare è un po' quello che sta succedendo e quello che si sta leggendo dai giornali, il fatto di De Rossi, la moglie, l'ex moglie, Sculli, suo ex tesserato attuale. Qui siamo però nelle pagine di cronaca giudiziaria più che di cronaca sportiva, Vincenzo. Sì, però c'è questo minimo collegamento che probabilmente dopo quello che ha visto lo ha portato a dire certe cose, ma credo sì, che sia più che altro una butade. È di sicuro, però non è una cosa così, cioè. È una cosa molto di pancia, visto le cose che sono successe. Uno pensa De Rossi, l'ex moglie, sì, Sculli. Uno pensa mille cose, però può anche tenersele, non è che bisogna si spara fango così, certo, ma mitragliatore. La premessa è quella: lui è una persona molto verace, l'ha detta di pancia. Abbiamo cercato e non risponde al momento. Sì. Sì, anche il Presidente federale ha detto delle cose di pancia. Prego, Vincenzo. Un'altra cosa: se alla moviola di Genoa-Roma aggiungete anche al quindicesimo c'è Sturaro a tu per tu con il portiere fermato in fuorigioco. L'abbiamo detto, fuorigioco quarto d'ora del secondo tempo, fa parte del dossier che abbiamo consegnato a Carlo Genta per domani 14-16 800-24-00. Vi invito da adesso a chiamare per la moviola. Tra poco inizia la sfida, ma è solo un gioco. Mi mancava questo anche la domenica. Francesco da Roma. No, volevo rubricare l'episodio di prima, perché c'è un ascoltatore che invece scrive quello del calcetto di Totti a Bertolacci, ha detto che è semplicemente un gioco, sono amici, l'ha sono amici, con il sorriso, stavano scherzando. Francesco da Roma, Francesco. Buonasera. Prego. Buonasera, grazie per la convocazione. Brevemente, io un attimino scinderei le cronache sportive dalle cronache giudiziarie, tanto per iniziare. Non sarebbe male. Dovremmo aprire un capitolo dagli anni 80 in avanti. Sono contento del fatto che la Roma sia uscita dalla Champions League, perché finalmente arriva al suo livello. Quindi tifoso della Roma, Francesco? O della Lazio? Tifoso della Roma. Tifoso della Roma, ok, andiamo avanti. E quindi penso che la Roma sia arrivata finalmente alla competizione che più le spetta, quindi l'Europa League. Io mi auguro che la Roma possa ripercorrere i passi dell'Atletico Madrid. Mi sembrerebbe già un futuro abbastanza positivo. E penso che comunque con il pareggio della Juventus e la vittoria della Roma si sia capito come andrà a finire il campionato. Cioè, come va a finire? Beh, penso che la Roma metterà il quarto scudetto in sua bacheca. Questa l'abbiamo registrata, Francesco da Roma, ore 18.53, no, tifoso della Roma, tifoso della Lazio, ore 18.53 di oggi, che è il 14 dicembre. Chi è? Pronto? Caro Genta, caro Capuano, Presidente, allora, mi è stato riferito che Pardo ha lasciato lo studio. Sì, ha finito alle 18, lo sapevamo, è tornato a casa. Finalmente non ci sono più mele marce, il gruppo è coeso, la squadra è positiva nonostante, sì, siamo in due, nonostante, parlare di gruppo è tanta roba, ho piacere, il nostro gruppo di ascolto della domenica, ha ragione Presidente, sì, viva siamo la domenica quelli, sì. Stavo dicendo prima che mi interrompeste entrambi che la squadra è positiva nonostante il cambio di formula di gioco. Al mio 3 voi dite Presidente lei ha ragione, allora 1, 2, 3 Presidente ha ragione, però basta. Cribio, stracribio, siete. Ci dice favorosi. Come finisce Milan-Napoli? Ci dice. Questa sera io sono sicuro, sì, che la squadra sarà coesa, sì, con un atteggiamento positivo, un gioco armonioso. Sì, ma ce lo dice il risultato. Vince il Milan. Oh. Allora, vince il Milan 1, 2, 3 Sì, Presidente ha ragione. Sì, ma siete mosci così, bisogna farlo più coralmente, in maniera più coesa. Gente, Capuano, sì, sì. Coraggio. 1, 2, 3 Presidente ha ragione. Presidente ha ragione. Ha ragione, ha ragione Presidente. Arrivederci. Buonasera. Arrivederci. Buonasera. Ovviamente il nostro Andro Mercù, che oggi non abbiamo fatto Cosmi. Siamo quasi in chiusura? Sì. Sì. Ma tu sei convinto che vince il Milan? No, non sono per niente convinto che vinca il Milan. Secondo me vince il Napoli. Sì, Napoli che ha tutto per vincere. Ricordava ieri Inzaghi, sono partite particolari, quelle con il Napoli l'anno scorso ad esempio, partita equilibrata, poi un colpo di Higuain l'ha decisa. L'impressione è che la qualità del Napoli sia superiore anche quest'anno. Ennesima panchina per Torres, terza consecutiva. Hai strano la sensazione questo, che ci stia ripensando anche Berlusconi? No, secondo me è strano, cioè è vera, potrebbe davvero essere moto di orgoglio di Pippo Inzaghi. Invece cioè, secondo me ci ha ripensato un po' anche Berlusconi, probabilmente gli hanno fatto anche vedere che effettivamente il Milan gioca meglio con il falso 9, con Menez messo in quella posizione lì. Abbiamo finito, io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Valeria Bernardi, Fabio Cantelli in regia. Domani l'appuntamento con tutti i convocati dalle 14 alle 16 con te, sì, e con Pierluigi Pardo. Noi invece torniamo a sentirci domenica prossima dalle 17. Ciao. 1, 2, 3